questa foresta è tua. Nato selvaggio, puro nell'anima, non sai paura cos'è. Quei cavalieri, simili a dei, non li hai mai visti, però. Paura nasce dentro, folle nell'alba, tu vuoi conoscere ciò che nel bosco non c'è. Conquiste.